Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Avete sentito il rumore, si è spostato il microfono, me ne accorgo sempre praticamente non appena partita la sigla. Va bene, allora, vasetti di yogurt e cespi di insalata che passano direttamente dal frigorifero al bidone. Abiti acquistati e mai indossati che restano appesi nell'armadio per anni. Rubinetti lasciati gocciolare per incuria o disattenzione. Luci accese in tutte le stanze e stand-by che non si staccano. Vassoi di salumi e ciotole di frutta intonsi ma destinati a immondizia perché nessuno al supermercato o al self-service li ha comprati. Lo spreco è un fantasma che accompagna i gesti di tutti i giorni ma che resta spesso invisibile. Basti pensare che secondo il dossier sullo spreco alimentare in Italia ogni anno se ne va nell'immondizia il 3% del PIL italiano. Si calcola che circa 600 euro l'anno a famiglia di alimenti non consumati prima della scadenza finiscano in spazzatura. E allora, partendo da questo presupposto, abbiamo proprio letto un passaggio di un articolo delle Sole 24 Ore pubblicato lunedì scorso. Partendo da questo presupposto abbiamo appunto avuto anche noi l'idea di organizzare, di copiare la pagina di Affari Privati del Sole di lunedì. Affari Privati ha realizzato il vademecum delle strategie antispreco da mettere in pratica in casa, dalla spesa intelligente alla possibilità di ridurre e riciclare le rimanenze, tutte le mosse che sono possibili per evitare non solo i salassi del portafoglio ma anche per un minore impatto ambientale. Questo è un tema molto interessante che generalmente vi coinvolge molto perché tra l'altro tutte le indicazioni anche di cambiamenti di comportamento che possiamo dare possono sembrare a volte banalità e tutte cose che sappiamo potenzialmente fare e che tutti conoscono, invece non c'è mai niente di così scontato e allora tante volte anche magari suggerimenti molto basici rappresentano delle assolute novità per certi comportamenti familiari. Noi oggi vogliamo invitarvi un po' alla riflessione, naturalmente invitandovi anche ad intervenire all'800 24 00 24. Le pagine del Sole erano curate da Rossella Cadeo. Ciao Rossella, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Manuela Soressi, Manuela in collegamento telefonico con noi, bentornata. Grazie, buongiorno. E poi tutte le indicazioni pratiche che in questo, alcune delle indicazioni pratiche che in questo articolatissimo articolo, mi viene anche il gioco di parole, erano contenute, sono state suggerite da Massimo Labra, docente di biologia vegetale all'Università degli Studi Milano Bicocca, che ha curato con un collega il progetto Ridere in Casa, poi vi spiegherò in cosa consiste. Professor Labra, buongiorno. Buongiorno a lei. E abbiamo con noi stamattina anche Cinzia Vaccaneo, presidente di Ecologos. Questo è un ente che svolge attività di ricerca scientifica, dicono loro, partendo dal basso, coinvolgendo i cittadini. Fra le iniziative, si può andare a curiosare anche sul sito, c'è tra le iniziative anche una serie di accordi con amministrazioni locali e la grande distribuzione per promuovere la cultura della vendita dei prodotti sfusi, la vendita alla spina. Cinzia, buongiorno e benvenuta a Salva Danaio, presidente. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Allora, vediamo un po' stamattina che cosa ci potete suggerire in termini di cambiamento di abitudini che magari proprio per lottare contro lo spreco avete adottato a casa vostra, avete suggerito ai vostri figli, ai vostri familiari. Ci piacerebbe orientarci soprattutto sul cibo stamane. Per la verità, poi quando abbiamo organizzato ieri la trasmissione ci è venuto in mente che avremmo potuto invitare migliaia di ospiti, centinaia di istituzioni, perché effettivamente la lotta allo spreco dal punto di vista alimentare è adesso una battaglia che sta coinvolgendo molte istituzioni, dal banco alimentare a tanti altri. Rossella, tra l'altro, come vi è venuta in mente una pagina di questo tipo, Rossella Cadeo? Ma gli spunti che possono indurre a una riflessione sull'opportunità di ridurre lo spreco in casa sono tantissimi. Ne abbiamo di fronte a noi tutti i giorni, dai rifiuti che ci assediano al cibo che finisce in spazzatura. Basta aprire un frigorifero e nella propria casa e già si capisce quanto a volte si consumi, si compri in eccesso. Poi ci sono tante manifestazioni in arrivo, tante anche disposizioni, per esempio la stessa uscita, la messa al bando degli shopper va in questo senso. Il prossimo aprile ci sarà una manifestazione che si chiama Porta la Sporta. Ne abbiamo parlato veramente tanto anche noi con la promotrice, con la Ricci, mi sembra, Silvia Ricci, se non mi ricordo male. Sì. Esatto, si parla anche per uscire un attimo dal settore alimentare, si parla tanto di contenere gli sprechi di consumi energetici, quindi abbiamo questa bioraria che ormai coinvolge 20 milioni di persone, di famiglie in Italia, e anche questa è un tema, un versante che ci fa pensare a che cosa si può fare per evitare di produrre tanta spazzatura, quindi meglio la prevenzione piuttosto che lo smaltimento, la discarica alla fine. Certo, chiaramente nell'ambito delle abitudini alimentari il cibo che si spreca è tanto, poi però noi magari vediamo, come dire, delle porzioni piuttosto contenute, allora qualche volta non ci poniamo il problema, qualche volta invece, come dire, la questione è un po' più evidente se uscendo dal ristorante magari diamo un'occhiata ai tavoli e vediamo tanto cibo sprecato, avanzato. Manuela Soressi, anche al ristorante e al supermercato si salvano gli avanzi, non solo con la doggy bag, che è quella, come dire, che è il contenitore che si può portare via se non abbiamo consumato tutto quello che avevamo ordinato, tra l'altro una pratica che magari qualche volta ci può dare anche un po' fastidio per pudore, non chiediamo al ristoratore o al cameriere di portarci via quello che non abbiamo mangiato, ma insomma non c'è niente di cui vergognarsi. Quali altre pratiche si possono mettere in pratica uscendo dal ristorante? Ma diciamo che la doggy bag è semplicemente la punta dell'iceberg di una serie molto ampia di iniziative che vengono realizzate un po' in tutta Italia e che stanno diventando sempre più numerose negli ultimi anni. C'è una grandissima attenzione a ridurre lo spreco, o meglio a trasformare l'eccedenza in una risorsa. Ad esempio c'è l'associazione City Cibo che ha iniziato a lavorare. Quella del Banco Alimentare, se non mi sbaglio? Sì, è legata al Banco Alimentare, mentre il Banco Alimentare lavora con le catene distributive, quindi con i punti vendita retail. City Cibo si occupa invece della collaborazione, riguarda la collaborazione con i ristoranti, con le mense. Quindi sono partiti alcuni anni fa a Milano, adesso si sono estesi in altre città e con i loro furgoni refrigerati ritirano ogni giorno piatti cucinati, pane, frutta, verdura, tutto quanto è ancora integro e non è stato consumato in mense e ristoranti. Quindi questa è un'iniziativa che ha fatto scuola in Italia e che è poi stata applicata anche da diverse amministrazioni locali, mentre per quanto riguarda le catene distributive, ad esempio, a parte l'operazione pilota, la più grande, quella di Last Minute Market, di cui si è parlato tantissimo. Il professor Segre a Bologna. Certo, il professor Segre, che aveva anche annunciato l'anno scorso, creato l'anno contro lo spreco, e diverse catene distributive hanno pensato di adeguarsi a questo sistema e quindi di trasformare i cibi invenduti, a volte scaduti o meglio in via di scadenza, molto spesso invece semplicemente non vendibili perché hanno un codice a barre sbagliato oppure un'etichetta strappata. Come dire, esteticamente difettosi magari. Difettosi e organoletticamente ancora perfetti, quindi sarebbe un doppio spreco, diciamo. Quindi c'è tutto un mondo che gravita lungo la filiera agroalimentare che si sta muovendo appunto per dare valore a queste eccedenze, a questi sprechi e destinarle prevalentemente alle mense e alle associazioni di volontariato. Sappiamo che è un altro mondo che ha bisogno concretamente del nostro aiuto. E queste naturalmente sono le indicazioni in termini di grandi numeri, bisogna vedere poi all'interno delle nostre case che cosa si può fare. Professor Labra, Università degli Studi di Milano, Bicocca, ha curato con un collega di cui adesso, professor Labra, non mi sono segnata il nome, quindi magari lo valorizza lei, il suo collega con cui ha realizzato il progetto Ridere in Casa, e attraverso lo studio contenuto in questo progetto, che adesso ci spiegherà appunto come si è formato, qual è stata la genesi e cosa vi ha mosso, insomma viene fuori che ogni italiano spreca 600 euro all'anno per acquistare prodotti alimentari che scadranno prima della data di consumo. Questa è una tredicesima per qualcuno, una bella rata di mutuo per qualcuno, per cui insomma per chi si lamenta che non riesce più a star dietro alle rate del mutuo, magari cerchiamo di controllare un po' meglio quello che succede dentro al frigorifero, perché magari ce la possiamo formare in questa maniera. Assolutamente. Dunque guardi, questo progetto appunto, come ha detto lei, nasce un po' da un'idea mia e di Maurizio Casiraghi nell'ambito di questo gruppo di ricerca che si chiama Zooplant Lab all'Università di Milano Bicocca. Noi siamo dei ricercatori e quindi cerchiamo di guardare i problemi insomma in maniera molto analitica, però siamo anche membri di questa società e vorremmo tradurre, diciamo, le nostre ricerche in consigli, strumenti utili al consumatore, a chiunque voglia, diciamo, approcciarsi a avere una vita un po' più ecocompatibile, diciamo, questa parola molto usata. Allora ci siamo chiesti che cosa fa sì che un italiano appunto prenda 600 euro di butti in pattumiera direttamente, perché poi di questo si tratta, su cosa i cittadini medi sbagliano, su cosa abusano, no? E allora abbiamo eseguito proprio un'analisi specifica sul territorio lombardo, avvalendoci della collaborazione di diverse associazioni come Lega Ambiente, ma anche di sociologi della nostra università, e chiedendo e valutando a seconda della fascia di età, di nucleo familiare, di stato sociale, insomma diversi parametri, che cosa viene fuori, qual è il risultato. E viene fuori che, per esempio, man mano che si scende con l'età, si fa incetta di cibi tipo verdure, frutte preconfezionate, che ovviamente hanno un'emivita molto più limitata. E quindi non si fa caso del fatto che l'insalata dopo 3 giorni scade, piuttosto che le carote già tagliate dopo 3 giorni scadono, e questi vanno a finire in pattumiera. Quasi il 20% dello spreco è legato a questo. Non è poco. Insomma, no, infatti. No? E voi, tra l'altro, conclusione di questo percorso, avete stilato anche la guida critica per il consumatore intelligente, come conservare i cibi e non farsi sorprendere dalla scadenza. Poi magari daremo proprio le indicazioni pratiche, perché sembra tutto davvero così semplice. Io tante volte mi stupisco anche della necessità di enfatizzare sulla stampa, come giornalisti, questi argomenti, perché sembra tutto così scontato. D'altronde ogni alimento la sua scadenza la contiene, e invece non sono affatto banalità. Bisogna dare delle guide ai consumatori anche su questi argomenti. Allora, io devo già andare in pausa, quindi non riesco ad iniziare con Cinzia Vaccaneo, prima ho messo l'accento sulla vocale sbagliata, me ne scuso, presidente di Ecologos, ma anche questo cambiamento di abitudini che porta a ricercare magari l'acquisto di cibi o di detersivi, cercando di evitare il più possibile gli imballaggi, è un'altra attitudine appunto che molti consumatori stanno manifestando. Allora spiegheremo loro, perché ancora non ci ha pensato, come orientarsi anche in questo mondo molto interessante. Poi cominceremo anche a sentire i nostri ascoltatori. C'è già Basilia dalla provincia di Roma, a cui chiedo un minutino di pazienza, e quindi anche con questa ascoltatrice cominceremo tra un po' ad animare la nostra discussione. A tra poco. Io ho già capito che lotterò fino alla fine della puntata con questo accento. Cinzia Vaccaneo, presidente di Ecologos, ce l'abbiamo fatta? Sì, quanto ha riso prima, lo so che sono un po' tarda qualche volta, ma c'è la mia assistente Gaia che mi sta tirando delle cose addosso, dice, ma insomma te l'ho detto in 15 lingue dove va l'accento. La chiamerò presidente, o magari la chiamo Cinzia, così abbiamo tagliato la testa al toro. Allora, Ecologos, dicevamo prima, noi stamattina stiamo parlando di come evitare gli sprechi in casa in tutti i settori, ma ci piace in particolar modo focalizzare l'attenzione sul tema del cibo, ma anche sui detersivi, su tutto quel mondo che sta nascendo, non tanto, è nato da un po' di tempo, ma che forse si va diffondendo un po' di più da qualche tempo a questa parte, di comprare i prodotti sfusi alla sfina, commercializzati senza confezione. C'è la pasta, si può comprare anche l'acqua, i detersivi, il latte, il vino, per contenere appunto gli imballaggi, i rifiuti. Si risparmia ovviamente anche in peso, magari, perché chiaramente tutto peso in più che ci portiamo a casa, poi tutta carta che dobbiamo buttare in qualche maniera, riciclarla, va bene, però insomma tutto impegno in più. In cosa consiste invece il vostro di progetto e come ci siete arrivati? Sì, il nostro ente di ricerca si è specializzato, diciamo, sulla riduzione dei rifiuti e quindi di conseguenza anche sull'alleggerimento dei prodotti finali degli imballi in più. Ha due progetti fondamentali, che sono il progetto Riduci Imballi e il progetto Negozio Leggero. Riduci Imballi coinvolge le amministrazioni pubbliche, quindi ha come soggetto finale di riferimento, diciamo, il cittadino, con la finalità di avviare sui territori comunali, provinciali e regionali iniziative di riduzione dei rifiuti però operative, concrete, che il cittadino possa, diciamo, utilizzare, dai pannolini lavabili, le fontane leggere, i detersivi appunto nella grande distribuzione organizzata, quindi coinvolgendo anche soggetti commerciali. Il negozio leggero invece ha, diciamo, come riferimento finale il consumatore, quindi, diciamo, l'altra faccia della stessa medaglia, che è quella dell'uomo, no? Immagino quanto sarà stata contenta l'industria che costruisce gli imballaggi delle vostre iniziative. avete avuto qualche azione ritorsiva nei vostri confronti? Adesso sto scherzando, naturalmente. Avete intavolato un dialogo anche con loro? Ma noi diciamo siamo un'entità aperta, quindi comunichiamo con tutte le realtà del territorio, perché cerchiamo di portare avanti le conoscenze di tutti, quindi anche dei produttori di packaging. Con i produttori di packaging si può ragionare ovviamente sui miglioramenti, che possono essere miglioramenti di materiali, la ricerca di nuove merci, nuovi prodotti che possono avere durata più lunga, quindi anche con loro si ragiona. Ovviamente, diciamo, la nostra finalità è quella di eliminarli, quindi diciamo abbiamo comunque un obiettivo che è differente. Certo. Senta, no, perché stavo riguardando la pagina del Sole 24 Ore di lunedì, dove appunto le colleghe Manuela Soressi e Rossella Cadeo indicano che il limite rispetto a questo tipo di strada può essere la diffusione dei punti vendita. Quindi le chiedo se la vostra iniziativa è isolata o se ce ne sono altre, quanti ce ne sono teoricamente appunto in giro, i corner nei supermercati e quanta disponibilità avete individuato anche nei consumatori ad organizzarsi in questa direzione. Allora, noi possiamo portare la nostra esperienza. Noi abbiamo aperto il primo negozio leggero circa 2 anni fa. Siete a Torino, vero? E siamo a Torino. Abbiamo poi aperto altri 4 punti vendita nell'arco, appunto, comunque un periodo abbastanza limitato, che sono 2 anni. Un secondo a Torino, uno a Novara, uno vicino a Brescia, ad Orzinuovi, e uno a Saluzzo. Questa iniziativa, diciamo, è stata poi un po' da esempio per altri che hanno, diciamo, portato magari all'interno dei propri negozi alcune referenze sfuse specifiche. Ovviamente lavorare sul tutto sfuso non è semplicissimo, perché oltre all'eliminazione del packaging bisogna comunque garantire un prodotto che è di qualità costante e norme igieniche, la catena alimentare, penso che ci siano, certo, tanti aspetti, certo. Poi ci dice anche chi sono i vostri fornitori, perché anche quello ci interessa capire, da dove arrivano questi prodotti, per capire se magari, adesso vi faccio un nome tanto per fare un esempio, se è il signor Dash che al supermercato vende con la scatola, con il contenitore tradizionale, e poi, come dire, rifornisce anche i corner sfusi o alla spina. Tra poco arriviamo anche a questo. Adesso andrei anche ai suggerimenti dei nostri ascoltatori all'800240024. Cosa pensano di questo argomento, quanto sono sensibili nell'ambito del loro nucleo familiare su queste tematiche. Basilia dalla provincia di Roma, buona giornata. Buongiorno signora, ci buongiorno dica a voi tutti. Allora, dunque, a me piaceva fare un punto della situazione, perché la cosa che più mi fa piacere poter dire a tutte le donne, io sono una signora di 64 anni che ancora lavoro, perché di pensione non si vive, e quindi ho l'esigenza di fare un appello che le mamme, le donne, le nonne devono ritrovare il loro ruolo di casalinghe soprattutto, perché io oggi mi rendo conto, che ne so, le faccio un esempio, che a Natale si regala alle proprie nipoti o ai propri figlioli il kit per rifarsi le unghie. Io credo di dover regalare invece una bella macchina da cucire ai loro figli, come ho feci io a 18 anni mia figlia. Invece di fargli fare la mega festa in discoteca, le ho mandate in pizzeria con 4-5 amiche e gli ho regalato una bella Singer da tavolo. Allora, guardi Basilia, quando organizziamo un dibattito su questi argomenti di educazione, anche mi piace la spesa, però, perché so che lei ha proprio il concetto della spesa intelligente, allora, da raccontarci. Ecco, allora le dicevo questo, che io per esempio le faccio un esempio banale per intenderle da dove si deve iniziare a insegnare ai figli a cucinare. Io vado al mercato rionale, dove c'è un banco che vende le uova di giornata, anche un po' beccate dalle loro galline, perché le galline purtroppo danneggiano, no? A volte, con 1 euro ne prendo 10. Vogliamo analizzare con 10 uova 1 eurino che cosa facciamo? Facciamo una sfoglia di 8 uova, 8, senta bene, con 1 chilo di farina noi possiamo fare delle cose incredibili, perché di una parte di questa ci facciamo le fettuccine, una parte i capellini, una parte i quadrucci per fare un buon brodo con un'ala di tacchino, con un pezzetto di manzo. Ma su questo lei ha ragione, ecco perché allora enfatizzava l'aspetto di ritornare a fare anche un po' le donne di casa. Ma lei si immagina, a me Rossella Cadeo, che viviamo murate vive dentro questa azienda, andare al mercato a comprare 10 uova e a fare tutta la sfoglia, come ci dice lei, che è lodevole il suo progetto. Il problema è che il tempo, come lei sa, lei deve anche lavorare e sa benissimo come funziona, quindi con il tempo come la mettiamo? Qualche volta lo spreco in casa nasce anche da questo, dalla mancanza di tempo, non trova? È vero, ma io ho sempre avuto un'attività commerciale in proprio, e tanto si immagini lei quanto tempo assorbe un'attività commerciale. Forse credo che sia un settore dove più si è fuori di casa, ma nonostante tutto, quando io non ho mai per esempio comprato le sfoglie, basta imparare le massaie a farla, perché non si fa più economia domestica a scuola, non si attacca più un bottone, non si mette più una lampada, bellissimo, le ragazze non sanno fare un urlo al pantalone. Basilia, le prometto che organizzo una trasmissione su questo, l'educazione domestica ai figli, vediamo un po' le mamme che cosa ci possono raccontare, ma sarà oggetto di un'altra trasmissione. Però sul tema della spesa intelligente ci sono tanti altri suggerimenti da dare, e credo che Rossella tu ne abbia scritto anche sul pezzo di lunedì. Sì, dei suggerimenti forse più facilmente rispettabili rispetto ai consigli della nostra ascoltatrice, perché sono adatti anche alle persone che appunto hanno meno tempo, che hanno anche meno pazienza in casa. E innanzitutto la lista della spesa, ecco, controllare quello che serve, uscire con questa lista possibilmente scritta e cercare di rispettarla una volta che si arriva al supermercato. Secondo consiglio, badare alle esigenze del proprio nucleo familiare, inutile comprare maxi confezioni se si è da soli, e non cercare neppure la data di scadenza più lontana per certi alimenti, tanto più se si sa che verranno consumati nel giro di pochi giorni. Quindi questo per quanto riguarda la spesa. Altra cosa, i mercati, questo è un discorso che si allaccia al tema dello sfuso alla spina, è possibile sia risparmiare sia contenere appunto l'imballaggio e contenere gli sprechi se ci si rivolge a dei cibi di stagione, prodotti locali. Adesso appunto abbiamo anche questi farmers market che stanno diffondendosi sempre più nelle città, quindi evitare di prendere frutta esotica piuttosto che cose fuori stagione, tutto ciò nel nome del chilometro zero, insomma. E poi organizzarsi in casa, frigorifero e data di scadenza e avanzi sono altre tre fasi da tenere presente nell'organizzazione ottimale della spesa. Infatti, alimentare. Tra l'altro, se non ricordo male, anche l'organizzazione del frigorifero è toccata dalla guida critica per il consumatore intelligenza del professor Labra, mi sbaglio? Alcuni di questi suggerimenti sono proprio inseriti in questa guida. Quello che appunto anch'io mi permetto di aggiungere rispetto all'ascoltatrice è che dedicare 5 minuti più alla spesa forse aiuta a sprecare di meno. Guardare anche la data di scadenza: una pasta di marche diverse può scadere in periodi diversi, un'offerta promozionale di 100 kg di lenticchie non sempre appropriata al nostro nucleo familiare. Queste cose davvero, perché poi alla fine quello che ci troviamo nelle dispense è l'esubero di quello che magari abbiamo comprato perché ci siamo fatti prendere dall'offerta speciale 5 barattoli al posto di uno, e in realtà ne consumiamo uno all'anno. Professor Labra, stavo controllando il punto 10 delle sue regole d'oro per sprecare meno: non lasciate i cibi iniziati nelle confezioni aperte, ma assicuratevi che siano riposti in contenitori o sacchetti sigillati o comunque protetti dal contatto diretto con l'aria. Non perché io lasci tutto aperto in frigorifero, ma stavo pensando che per esempio l'insalata che compro magari nelle confezioni già pronte la rilascio lì, quella che non consumo lo chiudo bene, va bene quello che faccio? Sono prodotti e prodotti, alcuni prodotti sono facilmente deperibili all'aria, quindi bisogna stare attenti all'ossidazione eccetera, altri prodotti sono, ecco, nella guida si possono trovare tante indicazioni. Comunque questa guida è scaricabile gratuitamente sul sito del nostro laboratorio, dello Zooplant Lab. E poi per quanto invece riguarda il settore dell'acqua, noi abbiamo realizzato questo kit che la volevo toccare dopo, il tema dell'acqua, mi dia un attimino di pazienza, certo, adesso sì, andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, se siamo pronti. Rudy, che mi ha detto: io guarda, più di una mozzarella quando vado a fare la spesa non la compro, perché lui comunque è un single incallito. Faccio anche questo messaggio a tutte le ragazze in ascolto: insomma, abbiamo un bel tecnico single che comunque è anche molto attento al suo portafoglio, al menage familiare e individuale naturalmente. Poi sentiamo anche Marius da Milano, tra poco. Non vi posso dire che dibattito si sta creando fra gli ascoltatori al 349-238-6666. Irena dice: sono assolutamente favorevole ai prodotti sfusi o alla spina, li uso anche, ma sono contraria a costringere di nuovo le donne nel ruolo di casalinghe. Non era questo il nostro obiettivo di oggi? Cucine chi lo fa con piacere, sia uomo che donna, magari anche per altri che hanno altre passioni. Irena, mamma mia, oggi veramente abbiamo ampliato a dismisura il dibattito di questa mattina. Allora, cibo e spreco... sì, avevamo in sospeso il tema dell'acqua, però volevo ritornare un attimo con Cinzia Vaccaneo, presidente di Ecologos. Abbiamo recuperato Marius? Non ce l'abbiamo ancora. Vaccaneo, sì Gaia, lo so, ecco che mi sgrida, al tema appunto dei prodotti sfusi, perché le volevo chiedere appunto quanto convengono, quanto fanno risparmiare a chi si rifornisce attraverso questa modalità? Convengono davvero a chi acquista, e voi come vi rifornite? Allora, il risparmio varia dal 20 al 70% a seconda della merceologia, a seconda della referenza, perché il packaging ovviamente ha un'incidenza differente, quindi il risparmio è consistente. e ce ne accorgiamo quando il cittadino viene a fare magari la spesa, fa una spesa magari importante e al momento del pagamento si ritrova a pagare pochissimo. Ci può fare un esempio, tanto per quantificarlo alle famiglie, magari a coloro che non sono convinti di questa modalità commerciale? Faccio un esempio: un detergente pavimenti, un litro di detergente pavimenti normale, quindi non a basso impatto ambientale, costa 40 centesimi al litro. Se si alza il livello e quindi si va a un prodotto comunque a basso impatto ambientale, con magari anche con tutta una serie di certificazioni di qualità, si può arrivare a €1, €1,20. Quindi si possono prendere anche prodotti di alta gamma, ma ad un prezzo assolutamente economico. Per non parlare ad esempio delle spezie, dove il corrispettivo dei 20 grammi che si trova nel vasetto tipico di spezie può costare 30 centesimi, 40 centesimi, quando invece quando compriamo il vasetto completo siamo intorno ai €2,40. Quindi due esempi piccoli, ma ovviamente se poi spalmati su tutti i prodotti che entrano all'interno della casa quotidianamente permettono poi alla fine di avere dei risparmi che sono veramente importanti. Ottimo. Allora, non mi sono dimenticata di Manuela Soressi. Manuela ha detto: adesso ti sottopongo il caso, la considerazione dell'ascoltatore, di un ascoltatore di Milano. Marius, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti, una fantastica proprio trasmissione. Meno male. Marius, ma lei di che origini è? Sono polacco. Ah, ecco. Ci dica però tutto. Attenzione, sono sposato con un'equatoregna. Allora, cosa succede? Che vado sempre e molto spesso alle ristoranti equatoregni. E cosa succede lì? Che quello che non si mangia si può mettere nei contenitori appositi che loro offrono con la loro pubblicità. €1 costa in più, però si può portare un sacco di roba quando siamo in 3 o in 4. E certo. Si porta tanto. Anche le bibite sono di 1 litro, 2 litri, portiamo a casa, che così non si spreca niente. Ad esempio, un altro esempio, che vado ad esempio spesso a Lidl o la Auchan, e lì c'è apposito frigorifero dove c'è 30% di meno. Allora, sì, per i prodotti che hanno una scadenza immediata, perché lo yogurt scade domani, magari il supermercato lo mette in un frigo apposito. Ma volevo dire che anche ci sono i salumi che ci sono con 5 giorni di scadenza. Questo che va. Certo, spesso capita che compro l'altra roba, vedo che costa 30% di meno, l'altra roba che costa di più, che ce l'ha le scadenze più lunghe, però non so che lo mangio entro 5 giorni, lascio quell'altra roba e prendo quello da 30% di meno, certo. Così lo so che risparmio. E infatti, grazie Marius, il tema è avere anche l'occhio per queste occasioni d'acquisto. Molto spesso non ci si pensa, invece magari sapendo che ci sono anche queste aree, un po' come le occasioni d'acquisto dell'IKEA, ci sono anche al supermercato. Manuela Soressi. Sì, si sono sviluppate proprio di recente, addirittura ci sono alcune catene che hanno creato dei marchi per identificare queste aree, sono semplicemente dei banchi frigoriferi dove vengono riposti, raccolti tutti i prodotti che appunto sono a scadenza breve, e il risparmio, come diceva giustamente il nostro ascoltatore, arriva anche al 50-60%. Mi sembra che il caso dell'ascoltatore sia stato molto interessante, perché dimostra come si sia sviluppata in molti italiani un'attitudine, un'attenzione diversa nei confronti degli acquisti. No, ma c'è anche una bella politica di marketing del ristorante equatoregno, che non solo ti consente di portarti a casa quello che non hai mangiato, te lo mette nella confezione con la sigla del ristorante, con il logo del ristorante, quindi insomma ti permette anche di ricordarti di lui più spesso. Sì, ma penso anche a questa iniziativa del Butta Stupa, che è stata una delle prime in Italia, cioè in piemontese, condividere la bottiglia stappata. Per cui certo è una manovra, è un'idea quella di poter portare a casa il vino che non si è terminato, di poter dividere la bottiglia con i commensali del tavolo a fianco. È un'idea utile per il consumatore, ma è un'idea sicuramente di marketing molto utile al ristoratore, che così magari riesce a far consumare vino anche a chi vorrebbe bere di meno perché ha i problemi adesso della guida, dell'etilometro e così via. Quindi sono delle iniziative che sicuramente vanno in direzione di tutelare, di aiutare il potere d'acquisto del consumatore, ma che sono anche iniziative di marketing importanti, ovvio, per gli imprenditori. Perché nessuno fa niente per niente, insomma, per cui bisogna trarre qualche profitto anche delle iniziative più lodevoli. Allora, professor Labra, torno a lei per gli ultimi minuti della trasmissione. In media i cittadini consumano 250 litri di acqua a testa al giorno, e il dato significativo è che gli italiani si fidano poco dell'acqua che sgorga dal proprio rubinetto. Questo dite nella vostra ricerca Ridere in Casa. Esatto, più precisamente diciamo gli italiani sprecano molta acqua. Guardi, c'è questo problema, abbiamo poca considerazione dell'acqua del nostro rubinetto, anche se quasi sempre di ottimo livello. Per questo noi abbiamo voluto proprio fare un kit fai da te che va nelle case degli italiani, si chiama Immediatest Acqua, e che una persona da sola può valutare com'è la qualità dell'acqua del proprio rubinetto, perché tante volte a priori diamo per scontato che la nostra acqua è dura, che sa di cloro, che è contaminata, eccetera. Nella maggior parte dei casi, ahimè, noi siamo in uno dei paesi che ha molti laghi, molti bacini idrici, eccetera, e l'acqua è quasi sempre di ottimo livello. Poi chiaramente bisogna valutare da zona a zona, acquedotto a acquedotto, però in questo modo diciamo è il cittadino da solo che prova, non siamo né noi università, né un privato, né l'acquedotto, né il comune. Il cittadino può da solo valutare come la propria acqua, e Immediatest Acqua è proprio un test facile, come il test di gravidanza. Benissimo, insomma. Le leggo due messaggi di due ascoltatori. Ottimo il discorso del peso, io bevo solo l'acqua del sindaco, ci racconta Manu, non solo perché è buona, ma anche per non fare la facchina con le bottiglie di plastica. Filippo invece ci scrive: le volevo segnalare che a Melzo, quindi qua vicino, c'è il distributore di acqua comunale, ma come in tantissimi altri comuni d'Italia, anche gasata, controllata ed è buonissima, per cui lì bisogna anche un pochino superare la resistenza dell'acqua del rubinetto. Anche Davide ce lo scrive: ricordate che l'acqua del rubinetto è molto più ecologica di quella in bottiglia che viaggia per centinaia di chilometri su tir. Questo è stato oggetto peraltro in passato anche di un'altra nostra trasmissione che aveva creato una grandissima attenzione da parte degli ascoltatori. Ci rimane un minuto di tempo, lo assegno a Rossella Cadeo che ha scritto appunti per tutta la trasmissione, perché poi da una trasmissione su un tema come questo che è vastissimo si creano, come dire, tanti rivoli da continuare ad approfondire, immagino, Rossella. Sì, assolutamente, è un argomento infinito questo, e sia gli ascoltatori sia appunto i nostri ospiti ci hanno dato dei notevoli spunti sui quali si potrà intervenire. Proprio forse abbiamo trascurato un po' la faccenda dell'energia ma Salvadanaio l'abbiamo fatta tante volte. Bioraria, il mercato libero, per cui anche lì la bolletta, attenzione, controlliamola un po' di più. Volevo far sentire 10 secondi Roberto da Pavia il criterio con cui va a fare la spesa. Roberto, ce la fai in 10 secondi? Assolutamente sì, buongiorno. Sì. Io e mia moglie facciamo questo criterio qua, facciamo il menù settimanale e andiamo a fare la spesa in base a un menù che siamo già prestabiliti. Perfetto. Praticamente il costo settimanale vivo rimane il pane e il latte che lo acquistiamo quotidianamente. Quindi non è che il menù si fa sulla base di quello che c'è dentro la dispensa, ma lo si fa prima e sulla base del menù prefissato si va a fare la spesa per tutta la settimana. Molto bene Roberto, un saluto anche a sua moglie, andiamo alla nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Allora, abbiamo la nostra collaborazione con l'INPS che prosegue e stiamo spiegandovi le parole della previdenza. Il concetto di oggi è finestra mobile. A partire dal 1 gennaio del 2011, se si è lavoratori dipendenti, si potrà percepire la pensione 12 mesi dopo aver maturato i requisiti di pensionamento. Se invece si è lavoratori autonomi, i mesi necessari per il pagamento della pensione dal raggiungimento dei necessari requisiti diventano 18. Si tratta della cosiddetta finestra mobile, che supera il precedente sistema delle finestre fisse. La decorrenza della pensione si lega così ai requisiti personali. La legge assicura la possibilità di continuare a lavorare durante il periodo di 12 o 18 mesi necessario all'apertura della finestra. Qualora il lavoratore dipendente perfezioni il requisito contributivo, utilizzando anche contribuzione accreditata nelle gestioni dei lavoratori autonomi, commercianti, artigiani e coltivatori diretti, si vedrà liquidare la prestazione pensionistica nella gestione autonoma e quindi potrà percepire il trattamento pensionistico dopo 18 mesi. In proposito, si precisa che la percezione della pensione dopo 18 mesi si verificherà anche nei confronti di coloro che sono iscritti alla gestione separata e di coloro che liquidano la pensione in totalizzazione. Non ho neanche un secondo di tempo per salutare i nostri ospiti che ringrazio complessivamente. Salvadanaio torna domani da Deborah Rosciani. Buona giornata e occhio allo spreco.